cadete in dense anime, alla ricerca perdita di rime, dentro stagni e dipendenze da crack e robe troppe annegano in morie di storie ricercando il flash. Lover del Latin lover, divergenti albe deragliano sopra il loro, spiccare il volo dal suolo. Solo il corvo rosso brama, noi sangue dall'oro, cara diabolica. Cara diabolica, il tuo amore che supera lirica la strada del disincanto. Non lasciarmi il nostro incanto intorno, intanto sul ponte dei suicidi l'ultimo canto. Intonando l'altro sollevare te, mentre gettando me divengo spazzatura di memoria. In una dimenticanza di tempo, mentre te vestita dei fiori di inchiostro, ti fa eterna nelle mie ultime terre raccolte. Porteranno a vero disincanto. Strade e te, intense anime. Alla ricerca di te, diabolica.